Benvenuti alla presentazione di questo libro di culto per tante generazioni, per tanti scrittori, a iniziare da Bertolt Brecht, che lo in qualche maniera ha citato, e poi Andrea, che ha curato il libro, ci racconterà anche questo aspetto, ma a Philip Roth, fino ad arrivare al nostro Valerio Evangelisti. È un libro di culto non solo per scrittori, ma anche per i movimenti. E Andrea Olivieri, che ha curato questa nuova edizione, l'ha ritradotta. E precedentemente, 2 anni o 3 anni fa, ha scritto 5 anni fa addirittura un romanzo strepitoso, sempre per Alegre, dove incrocia la vita di Adamic, che era di origine slovena, e i fatti del confine del nord-est e anche della vita di suo nonno partigiano. Un libro veramente bellissimo. In questo caso ci è sembrato giusto inserirlo in 2 rassegne che sono... E perché soprattutto? Il libro non è un libro di storia, è un libro di storia, anche un libro storico, ha la sua importanza storica, ma è importante anche a livello artistico, letterario, e giustamente Roberto Bui, Vuming 1, nel risvolto di copertina, sostiene che il contenuto è importante sia nella rivolta dello stile, ma anche del contenuto. E abbiamo voluto inserirlo in 2 rassegne, dicevo. Una è quella scritture e movimenti, scritture senza movimenti, che di cui insomma abbiamo già siamo già giunti al quarto appuntamento, e che dopo la ripubblicazione del libello di Bifo su scrittura e movimenti, su scrittura e movimento, abbiamo pensato che fosse interessante riflettere su questa abbinata, ma anche sul fatto che purtroppo di movimenti negli ultimi anni se ne vedono poco, e quindi anche di scritture senza movimenti, e comunque di scritture che cercano di tenere assieme sia l'aspetto della trasformazione del linguaggio, ma anche della trasformazione sociale, quindi ricerca estetica e contenuto politico. E questo libro, il libro di Adamic, ma è anche il precedente romanzo di Andrea Olivieri, vanno in questa direzione. E la presentazione è anche all'interno di una serie di iniziative che sono state fatte in occasione dell'anniversario della scomparsa di Primo Moroni. La rassegna si chiama Primo Moroni, spunti e narrazioni per la critica e le pratiche militanti, dedicata appunto alla memoria di Primo Moroni, che è molto importante per questo luogo, e non solo per questo luogo, instancabile promotore di momenti di vita vissuta in cui condividere saperi senza fondare poteri, come dice il nome della rassegna. Che dire ancora? Purtroppo non abbiamo con noi Sergio Bologna, perché speriamo di riaverlo presto, ha avuto una brutta caduta, insomma si sta riprendendo. Però oltre ad Andrea c'è con noi Bruno Cartosio, che inquadrerà a livello storico il libro di Adamic, magari appunto contestualizzandolo nel momento sociale, e raccontandoci anche qualcosa di più sui Ubli e sul sindacato rivoluzionario americano. Direi che con Andrea pensavamo, dopo questa introduzione storica di Bruno, di fare una presentazione molto colloquiale, per cui se avete letto il libro o comunque se avete delle curiosità, ben volentieri utilizzeremo questo metodo. Allora, parola allo storico. Il libro, come dicevo, non è un libro di storia, è un libro per l'oggi, e devo dire che è un libro per l'oggi non solo per i contenuti del libro, ma anche grazie alla prefazione e soprattutto alla postfazione che ha scritto Andrea, dove cerca, Andrea è riuscito a con lo stesso stile, ma anche con gli stessi contenuti, a parlare delle lotte di oggi e delle questioni più toccanti degli ultimi anni, e di creare quasi un capitolo in più al romanzo che aveva precedentemente scritto. E la postfazione, se la prefazione ha un taglio di presentazione molto filologica e sulla ricerca, lui è stato uno dei pochi ad andare negli Stati Uniti, poi ha avuto anche delle traversie legali e per cui non ha potuto più andarci, però ha toccato con mano i materiali di archivio dell'archivio di Luis Adamich, e quindi insomma questo aspetto di contestualizzare nell'oggi con le lotte e di fare dei confronti, secondo me è riuscito molto bene, e poi ce lo racconterà in maniera più dettagliata. Lascerei la parola a Bruno Cartosio. Questo libro è stato ripubblicato perché era uscito molti anni fa, nel 77 o 78, 77, e allora in questa rivista, che qualcuno qui magari si ricorda, avevo scritto un pezzo, forse è meglio, va bene, si sente? Va bene. Allora, nel 78 avevo scritto su questa rivista, Primo Maggio, un pezzo intitolato Storie e storici di operai americani, perché nella rivista avevamo preso la strada di andare a esplorare la storia di quel movimento operaio, di quella classe operaia, di quel mondo del lavoro che in Italia all'inizio degli anni 70 era praticamente sconosciuto, e per quel poco che alcuni pensavano di conoscere era un mondo su cui c'erano un mucchio di equivoci. E quindi noi, a partire proprio dal primo numero, cominciando a pubblicare cose sugli IWW, cioè gli Industrial Workers of the World, avevamo cercato di aprire una finestra, una strada in realtà. E a un certo punto poi, in questo pezzo, io che mi ero quello che più di altri si interessava di questo tipo di temi, avevo fatto questo saggio un po' complessivo di resoconto dello stato della ricerca storica. E in questo pezzo avevo parlato di vari libri che erano usciti e ne davo delle letture più o meno critiche nel senso di valutative, insomma esplicative, e poi con il libro di Luis Adamich si cambia discorso. Cioè, poi dovevo parlare di questo libro che aveva avuto una circolazione, una fortuna immediata. In Italia era diventato una lettura obbligata tra, tra i compagni. Per dire che insieme a delle qualità che il libro ha, di cui dirò qualcosa, c'erano anche dei difetti e alcune caratteristiche che, diciamo così, un po' brevemente, facevano un po' incazzare. Per darvi un'idea, Adamic presenta questi cospiratori, cioè un gruppo di minatori irlandesi che formano una società che lui presenta come la carboneria, cioè una società segreta, violentissima, erano tutti degli assassini nati. E scrive Adami, quando parla dei Molly Maguires, trovarsi in disaccordo con un Molly, cioè con uno di questi minatori, intanto mi scappa da ridere perché sto lì per leggere le cose che... Trovarsi in disaccordo con un Molly significava la morte quasi sicura. Questa è una leggera esagerazione. Per un po' di tempo i capi si rifiutarono di assumere irlandesi, ma morirono tutti di morte violenta. Gli assassini venivano eseguiti in maniera fredda, calcolata, quasi impersonale. Le riunioni in cui venivano pianificati gli assassini cominciavano spesso con le preghiere e alcune altre osservazioni di questo tipo, che stanno all'inizio del libro. E uno che lo legge all'inizio è investito da questa presentazione di ma dove siamo capitati? In realtà poi il libro ha un'altra storia di cui parliamo tra un attimo, ma questa colpisce perché questi effettivamente erano un gruppo di lavoratori che oggi definiremmo vagamente più o meno sindacalizzati, comunque agivano per la difesa dei lavoratori, su questo non c'è dubbio, contro una classe padronale che in particolare nelle miniere era una classe di farabutti, estremamente violenti, estremamente pericolosi e pronti a tutto per reprimere qualsiasi tentativo di alzata di testa dei lavoratori. Quindi questa è la realtà. I Molly Maguires erano una delle tante piccole o grandi società segrete che attraversavano il mondo americano, in questo caso americano non solo, ma stiamo parlando degli Stati Uniti, attraversavano questo mondo ed erano presenti ed erano le forme di autodifesa nei confronti di un padronato che era estremamente violento, estremamente cattivo e pronto a tutto. Va bene, questo era l'inizio un po' scioccante di questo libro. Poi il libro prende l'avvio e è un libro come giustamente ha scritto Andrea nell'introduzione, è un libro di storie interne e intorno alla classe operaia e al mondo del lavoro. E è un libro diseguale, non ha tutto la stessa presa, non ha dappertutto la stessa anche precisione e capacità di cogliere il centro della questione. Però in alcuni punti ha un taglio cronachistico e estremamente preciso e informato, in altri meno. Quando parla, per esempio, dei fratelli McNamara, non la faccio lunga, sono due aderenti sindacalisti dell'American Federation of Labor, la formazione sindacale moderata, in certi momenti conservatrice o addirittura reazionaria in qualche caso, scusatemi, quando parla di questi due che hanno fatto saltare la sede con la dinamite, appunto, la sede del Los Angeles Times, un giornale, il primo giornale di Los Angeles, il cui proprietario era una figura centrale nel mondo dei potenti di Los Angeles, che non era la Los Angeles di oggi, era una città di poco più di 300.000 abitanti. Tuttavia, quando questi due fecero saltare la sede del Los Angeles Times, beh, il pezzo che Adamek scrive su questa vicenda, sui due dinamitardi, sul sindacato a cui appartengono, sulle mobilitazioni a loro favore, anche se poi alla fine loro stessi ammetteranno di essere stati loro a compiere questo atto, quando costruisce questo quadro lo fa con grande precisione e con grande vivezza. Quindi lì è un punto alto della scrittura. Poi ci sono tanti altri episodi imperniati sullo scontro di classe. Un'osservazione che lo storico, cioè io in questo caso, può fare è che molto spesso, proprio perché il libro ha una struttura narrativa, tende a muoversi secondo le regole della narrativa, cioè dando un rilievo particolare a delle figure di singoli che si staccano rispetto alla massa, che a volte viene spinta o lasciata un po' in secondo piano. Ma scontando questo, che è legato alla narrazione e alla tecnica, alla modalità narrativa, il libro tocca tutte le grandi questioni della lotta di classe e della peculiarità della lotta di classe negli Stati Uniti, che è una lotta di classe che, contrariamente a quello che si pensava e che si riteneva in Italia dal dopoguerra fino agli anni 60, era una lotta di classe estremamente violenta. Gli scontri erano estremamente violenti. Lì davvero ci si sparava addosso. Non sempre si facevano saltare in aria le cose con la dinamite, ma spararsi addosso assolutamente sì. Quando il magnate dell'acciaio vuole eliminare i tentativi di sindacato, recluta le guardie private di Pinkerton, che era la società che aveva creato proprio un corpo di guardie private per il padronato. Quando Carnegie, il magnate dell'acciaio, vuole distruggere il sindacato, recluta, prende in affitto un certo numero di agenti Pinkerton che cercano di sbarcare nella sponda del fiume su cui si affaccia l'acciaieria di Carnegie e vengono accolti dal fuoco degli scioperanti, e rispondono al fuoco naturalmente, e ci sono morti e feriti da una parte e dall'altra. Questo per dire che le cose andavano. In quel caso è uno scontro proprio armato di massa, quasi una piccola battaglia con gli indiani. In altri casi invece c'erano le forme classiche in base alle quali si usava sia il sistema giudiziario, sia le polizie locali, sia la Guardia Nazionale in qualche caso, ma che questo tipo di dinamica, di scontro, quasi senza mediazioni, è durato per tutto il periodo che poi è oggetto del racconto di Adamek, cioè dall'inizio del Novecento fino al 34. È un peccato in un certo senso che il libro finisca nel 34, perché negli anni immediatamente successivi c'è una ripresa di attività, di combattività, di aggressività operaia che porterà agli scioperi che sono diventati appunto epocali e alla ricostruzione di un mondo di sindacati diversi tra loro che era stato molto, molto colpito e molto schiacciato dalla repressione diretta e indiretta del padronato americano. È un peccato che arrivi lì e finisca lì, perché come altre cose che ha scritto dopo, Adami, cronachista, ha delle capacità di racconto, di narrazione, di costruzione del racconto e delle vicende che è in grado di attrarre e di tenere legato il lettore. Due osservazioni di carattere più generale. Una è: dal punto di vista storico nel libro ci sono delle inesattezze. Ci sono delle inesattezze, dei racconti troppo parziali e va bene, ma questo non è uno storico, non ha la pretesa della storia, per cui va bene. Dall'altra parte, la qualità narrativa che è certamente presente è la capacità che rende chiaro che si sta parlando di un mondo che non è quello dell'Europa. Voglio dire, non è quello dell'Europa che poi in questi anni, dicevo, arriva fino al 34, ma in Italia c'è il fascismo dal 22, in Germania è appena stato eletto Hitler nel 33, in Portogallo c'è già il fascismo, in Spagna c'è la guerra che si concluderà con la vittoria del fascista Franco nel 36, quindi non è che qui non ci sia violenza, c'è un altro tipo di situazione, un altro tipo di violenza. Qui, per esempio, il fascismo ha represso un partito socialista che era maggioritario. Negli Stati Uniti il partito socialista rimarrà sempre minoritario. Il partito comunista negli anni 30 arriverà ad avere circa 100.000 iscritti e Adamek non può negarlo, ma non ha sempre simpatie esplicite nei confronti dei comunisti americani. E per cui queste cose vengono fuori nella narrazione, ma non c'è un'analisi dei limiti dei socialisti o dei limiti dei comunisti. Ci sono cose sull'American Federation of Labor, cioè il sindacato di mestiere, la federazione dei sindacati di mestiere, che è molto schietta e molto esplicita nella sua condanna. I sindacati di mestiere erano tanto inefficaci e insufficienti nel mondo della grande industria che era cresciuto all'inizio del Novecento. Poi era pronto al compromesso, aveva questa unica caratteristica, l'economicismo, in un dibattito con un socialista che si chiamava Hilquit Gompers, il capo dell'American Federation of Labor, discute e quello, il socialista, gli dice: noi vogliamo arrivare a questo, questo e quest'altro. E Gompers dice: e noi vogliamo di più. E lui dice: vogliamo anche questo e quest'altro. E Gompers, l'American Federation of Labor, dice: e noi vogliamo more, di più. Sempre di qualsiasi cosa, sempre di più. Non gli interessava il socialismo, la trasformazione radicale della società. Voleva di più in termini economici e di potere. che in parte gli venne concesso, in parte no, ma in parte veniva anche represso, da cui per esempio la reazione come quella che ho citato dei fratelli McNamara, che fanno saltare un palazzo intero, la redazione del giornale. Paradossalmente sono molto più violenti questi episodi di quelli che sono entrati nella storia come la pratica violenta degli Industrial Workers of the World, gli IWW o Wobblies. Ma perché c'è uno squilibrio? Questi erano episodi, quelli dei Wobblies, erano fatti di massa e avevano una strategia. Quelli dei violenti dell'American Federation of Labor o di altri sindacati altrettanto politicamente moderati erano forme di esplosione legati alla violenza dello scontro tra padronato e operai. Ecco, queste sono le cose che racconta Adamek. Ci sono, dicevo, imprecisioni, va bene, ma il racconto tocca questa caratteristica specifica e peculiare dei rapporti di classe negli Stati Uniti e arriva fino, dicevo, alla metà degli anni 30, cioè al New Deal e alle grandi lotte che hanno portato poi alla costruzione, alla nascita e allo sviluppo di sindacati, il più noto dei quali è quello dell'automobile, che è stato protagonista nei mesi scorsi di una lotta senza precedenti nei confronti delle grandi dell'auto. E mi fermerei qui, poi magari diciamo altre cose. No, non mi fermo, scusate, ho dimenticato la cosa più importante. Ho dimenticato di fare i complimenti a Andrea, perché l'introduzione che non c'era nella prima edizione è un'introduzione ottima anche dal punto di vista della capacità di cogliere proprio le qualità narrative, storiche, tanto o poco, ma di cogliere la qualità e l'importanza anche del libro di Adamek. Mi scuso con lui per aver lasciato la lode alla fine, ma insomma dimenticarla sarebbe stato offensivo. Mike Davis in Le città di quarzo cita Adamich e lo presenta come un immigrato austriaco. Ora, ovviamente non aveva capito la zona di provenienza di Adamich, che invece era l'attuale Slovenia, che faceva parte, quando partì per gli Stati Uniti, dell'impero austro-ungarico. Partendo da questo, volevo chiederti, Andrea, quanto ha influito il fatto che tu sei originario di quelle zone di confine misti lingue e come ti sei imbattuto in Adamich e come è iniziata questa tua passione per la sua opera? Posso prenderla in mano? Sì. No. Occhio. Allora, intanto buonasera a tutte e a tutti e grazie mille per l'invito, grazie mille a Mark e grazie a Bruno per avere sintetizzato egregiamente la personalità di questo libro, fondamentalmente, richiamando tra l'altro qualcosa che aveva scritto all'epoca della prima edizione. Mike Davis, vittima un po' di alcuni limiti, diciamo, tipicamente americani di conoscenza della geografia e della geografia storica globale, mettiamola in questi termini. Però è interessante il fatto che proprio Mike Davis ne abbia parlato. Allora sì, tecnicamente Adamich, io dico Adamich perché ho deciso di trovare questa sintesi tra il nome originario sloveno, che appunto viene pronunciato in questo modo, e quel Eidemic che lui scelse di programmaticamente di utilizzare negli Stati Uniti, nel momento in cui già a Ellis Island si rese conto che i segni diacritici sulle, su determinate lettere dell'alfabeto tipicamente delle lingue slave non erano riproducibili. Ma su questo veniamo dopo, perché ha a che fare con l'identità migrante, che è uno degli aspetti che in realtà è la vera origine della mia del fascino che ha esercitato su di me la figura di Adamic inizialmente. Però l'aspetto, il fatto che ne abbia, cioè, quindi Adamic nasce nel 1898 vicino a Lubiana nell'impero austro-ungarico all'epoca, e tecnicamente resta un cittadino austriaco finché non acquisirà la cittadinanza americana, tra l'altro facendo il servizio militare negli Stati Uniti, che era una delle poche possibilità che all'epoca c'erano per gli immigrati recenti per acquisire la cittadinanza in tempi brevi. Però dicevo, è interessante l'aspetto, il fatto che Mike Davis abbia scritto di Adamic, perché c'è un'analogia importante tra i due. Entrambi in un qualche modo sono degli scrittori e dei divulgatori per lo più autodidatti. Nel caso di Adamic parliamo di una persona, e credo sia questo l'aspetto che spiega e motiva anche i limiti che giustamente Bruno prima individuava e che non abbiamo nascosto, nel senso che nella prefazione abbiamo scelto di mettere subito allo scoperto con una critica tra l'altro di Valerio Evangelisti, di mettere allo scoperto i limiti dal punto di vista storiografico del libro. E Adamic arriva quindicenne negli Stati Uniti, emigra da solo, entrerà da quel momento nel flusso delle comunità migranti per lo più slovene e croate di New York in quegli anni, farà la solita gavetta che facevano la maggior parte dei migranti di quell'epoca, per cui mestieri temporanei, precari, saltuari, a volte molto duri, a volte un po' di meno, e di fatto quella sarà la sua formazione da ogni punto di vista, nel senso che in quel modo si impadronirà della lingua inglese, che lui fino a quel momento non conosceva per niente. Negli anni vorrà impadronirsene anche dal punto di vista della scrittura, per cui leggerà moltissimo, frequenterà ovviamente anche qualche corso di lingua quando ne avrà l'occasione, ma per lo più le occasioni saranno quelle della vita reale che lo metteranno in quella condizione. Faccio questa premessa perché Dynamite è il suo primo libro. È un libro che lui scrive quando che lui pubblica quando lui ha 33 anni, nel 1931. È un libro che lui pubblica dopo aver pubblicato una lunga serie di articoli, spesso anche sotto pseudonimo, su varie riviste, su varie riviste che in quegli anni avevano anche una... si affacciava il fenomeno del muckraking, il giornalismo scavafango, sarebbe la traduzione letterale, che però in realtà è una forma nobilissima di giornalismo che diventerà quello che conosciamo oggi come giornalismo d'inchiesta, che poi avrà nel New Journalism degli anni 60 un ulteriore momento di grandezza. E in particolare uno dei suoi mentori all'epoca è un personaggio assolutamente strano e unico, che è Henry Louis Mencken, che era di fatto un, come lo potremmo definire, un libertario di destra. Un libertario di destra che però ha un particolare fiuto intanto per le iniziative editoriali. Qualsiasi rivista che Mencken lancia ha un successo impressionante. Lui soprattutto ha la capacità di individuare giovani autori, e individua giovani autori che hanno proprio fame di raccontare, che hanno fame di raccontare vicende che li riguardano direttamente, Mencken ha questa passione. Succede ad esempio anche con un tale Jack Conroy, che purtroppo in Italia non è stato tradotto. Adesso speriamo forse di riuscire a mandare in porto una prima traduzione di Conroy, che è un altro autore di quegli anni, anche lui con una storia working class alle spalle, che viene da una famiglia di minatori. Era il suo primo libro, The Disinherited, è una storia durissima che inizia appunto nelle miniere della Pennsylvania con condizioni di lavoro minorile che fanno spavento, veramente spavento a sentirle raccontare. E quindi Mencken, Adamic entra nella, un po' nella cerchia di Mencken, comincia a pubblicare degli articoli, comincia a pubblicare negli anni 20 delle storie che bene o male o ha vissuto personalmente o ha sentito raccontare da gente che ha incontrato durante il suo cammino. Sono storie che lui già di suo tende a drammatizzare, ma che Mencken lo spinge a drammatizzare ulteriormente, perché il giornalismo che faceva Mencken noi oggi lo chiameremmo sensazionalistico, con una differenza però qualitativa non indifferente, nel senso che il giornalismo sensazionalistico di oggi per lo più ormai vale tutto. Puoi inventarti qualsiasi stupidaggine, farla diventare una storia e far credere che sia vera, anche grazie alla veicolazione dei social network, ad esempio. Ma all'epoca era comunque giornalismo che aveva sì toni sensazionalistici, toni anche scabrosi per alcuni versi, ma che in un qualche modo descriveva, descriveva fedelmente almeno alcuni tratti della società americana dell'epoca. Ed è uno dei motivi per cui, uno dei tanti motivi per cui queste iniziative editoriali di Henry Mencken avevano particolare successo. Questa premessa per dire che quando Luis Adamic si ritrova nel 1930 ad essere a New York, è disoccupato l'anno successivo del crollo borsistico di Wall Street, quindi in uno dei momenti in cui la disoccupazione negli Stati Uniti raggiunge dei picchi enormi, con milioni e milioni di persone che fanno letteralmente la fame. Di quei milioni, moltissimi sono immigrati recenti, come Adamic stesso, cioè quella gente che è arrivata soprattutto dal sud e dall'est Europa tra l'ultimo decennio dell'Ottocento e il primo decennio del Novecento. E lui batte le case editrici newyorkesi tentando di pubblicare, di trovare qualcuno che lo finanzi per pubblicare un libro, finché trova effettivamente un editore che gli dice sì, mi ha convinto la tua storia, però dovrai fare alcuni cambiamenti. E Dynamite è il frutto di questi cambiamenti. I limiti di Dynamite sono anche il frutto di quei cambiamenti, perché curiosamente, come Bruno ha intuito, la storia dell'attentato al Los Angeles Times è proprio il nocciolo iniziale di Dynamite. Adamic inizialmente voleva scrivere quella vicenda, si era appassionato a quella vicenda, e se infatti quella vicenda è quella storicamente più accurata, il motivo è molto semplice, che lui aveva un testimone di prima mano che gli aveva raccontata, che era un socialista di nome Edward Cantrell, con cui lui era diventato molto amico, ed era una figura di socialista californiano che era stato testimone diretto delle manovre loschissime che i vertici dell'American Federation of Labor, che si erano infiltrati nel Partito Socialista di Los Angeles, anzi ne avevano preso letteralmente il controllo, avevano messo in atto dietro le quinte di quell'attentato. Quindi Adamic parte da quell'episodio, vuole raccontare quella vicenda, ma a un certo punto l'editore gli dice: non basta, tu devi mettere sul piatto qualcosa, perché noi siamo in un'epoca in cui il pubblico ha sete di storie che raccontino la disperazione che sta vivendo il popolo americano in questi anni, ha sete di storie che raccontino la miseria che si sta espandendo negli Stati Uniti dopo la crisi del 1929. Quindi L'ideale sarebbe che tu scriva un racconto più ampio sulla violenza nella lotta di classe degli Stati Uniti, non solo l'attentato al Los Angeles Times, ma anche altri episodi. Contemporaneamente Adamic conosce anche un altro personaggio che è fondamentale per la sua formazione, che quasi è praticamente l'alter ego di Mencken. Questo personaggio è Upton Sinclair. Upton Sinclair è lo scrittore, l'autore del libro famosissimo The Jungle, La giungla, questo lo trovate tradotto in italiano, che all'inizio nel 1905, non vorrei sbagliare, dovrebbe essere l'anno di pubblicazione, è una sorta di romanzo narrativo, ma anche di reportage. Upton Sinclair era riuscito a farsi assumere nei macelli di Chicago e da dentro i macelli di Chicago racconta per la prima volta al pubblico americano nella giungla, racconta la realtà dei macelli di Chicago, che è una realtà assolutamente allucinante. È una storia che in certi momenti fa rabbrividire. Operai che finiscono nel tritacarne in cui dovrebbero finire i maiali e vengono praticamente insaccati insieme alla carne suina. E minori che lavorano in condizioni spaventose per turni di 12-14 ore. Paghe da fame, impossibilità di sindacalizzazione. Insomma, Upton Sinclair è il primo che mette davanti al pubblico americano, con tutta la crudezza di cui è capace, le condizioni di lavoro dentro quella particolare realtà. Per un paradosso, Upton Sinclair era convinto di scrivere una storia che avrebbe fatto indignare il pubblico americano per le condizioni di lavoro degli operai, e invece quel libro ha successo perché il pubblico americano per la prima volta si rende conto che grazie al capitalismo, all'industria alimentare americana, sta letteralmente mangiando la merda. La giungla ha successo perché è il primo libro che svela su come funziona l'industria alimentare in un paese enorme come gli Stati Uniti. Ritorno. Adamic conosce Upton Sinclair, lo stima moltissimo, è assolutamente affascinato dai suoi libri, a partire dalla giungla, poi Petrolio e diversi altri, e Upton Sinclair gli dice, lui gli spiega la sua intenzione, gli dice: ero partito con l'idea di scrivere un libro sull'attentato al Los Angeles Times perché ho tutte queste informazioni, ho intervistato Cantrell, mi ha raccontato di retroscena, eccetera, ma l'editore vuole che io scriva un libro più ampio sulla violenza di classe negli Stati Uniti e quindi mi sto documentando. Sto andando in biblioteca a spulciare i giornali, eccetera. Su questo ritorno tra un attimo, perché c'è l'aspetto delle fonti poi di Adamic, che è il grande limite suo di tutta la vicenda. E Upton Sinclair gli dice: sì, ma tu non devi scrivere un saggio, tu devi fare un romanzo. Anzi, se in questo romanzo metti anche una storia d'amore, che fa ridere pensare a Upton Sinclair, che però effettivamente... anche le malizie che poi scopri nei retroscena dei rapporti tra questi autori sono interessanti ed emblematiche. Upton Sinclair gli dice: tenta di fare un libro di fiction, non scrivere un saggio. Primo, perché tu non hai gli strumenti per scrivere un saggio, perché tu sei un autodidatta, non hai neanche fatto il college, non hai fatto studi particolari, hai imparato a scrivere in inglese da solo, hai una capacità di scrittura limitata, un vocabolario comunque inferiore, eccetera. Tu devi scrivere una storia che sia più possibile, ci devi mettere dentro il cuore, la passione e soprattutto la tua condizione, perché tu sei un working stiff. Tu sei un morto di fame, tu sei uno sfruttato. E Upton Sinclair, da socialista, questa cosa la crede fermamente. Tra l'altro, la cosa curiosa è che Sinclair e Mencken avevano dei rapporti di amicizia, erano in disaccordo praticamente su tutto, però erano amici. Quindi Adamic, in un qualche modo, è inizialmente il prodotto di questo scontro tra queste due personalità assolutamente diverse dal punto di vista letterario e giornalistico, però complementari. Io direi anche, non so se Bruno è d'accordo, complementari anche nel rappresentare un certo mondo culturale americano di quell'epoca. Veramente l'aspetto che li accomuna è che entrambi sono piuttosto onesti nel loro modo di raccontare, nel loro modo di fare giornalismo, nel loro modo di fare letteratura. Quindi Dynamite è il prodotto di queste tensioni assolutamente diverse, e in più è il prodotto del fatto che voi dovete immaginarvi una trentenne immigrato che ha fatto lavori precari, che è diventato americano semplicemente perché ha deciso di arruolarsi per alcuni anni nell'esercito americano, e che sta letteralmente con le pezze al culo, che deve riuscire a scrivere un libro in tempi strettissimi, tra l'altro, perché se no non lo pagano, e quindi rischia di fare la fame per chissà quanti mesi, e quindi comincia a battere tutte le biblioteche di New York documentandosi sulle varie vicende, eccetera. La vicenda dei Molly Maguires lui la racconta semplicemente come l'avevano raccontata i giornali, che ovviamente erano per lo più di ispirazione padronale, negli anni in cui Molly Maguires si muovevano nelle miniere di antracite della Pennsylvania. E quello è il punto, cioè lui prende per buoni quei racconti e non solo ci mette del suo, li carica ancora di più di toni sensazionalisti, di toni per in un qualche modo colpire l'immaginazione del pubblico e via dicendo. E alla fine questo libro, in un modo o nell'altro, esce e ha un discreto successo, proprio per le ragioni per cui l'editore era convinto che andasse fatto, ovvero in quel momento il pubblico ha voglia, ha bisogno, forse sarebbe meglio dire, richiede storie che in un qualche modo rappresentino l'evoluzione di come si è arrivati a quel punto, come si è arrivati al punto che gli Stati Uniti sono un casino immane, in cui ci sono letteralmente milioni di persone che stanno facendo la fame, che hanno bisogno di un alloggio perché non ce l'hanno, che hanno bisogno di fare file chilometriche per avere un pasto caldo e via dicendo. Io credo sia importante però a questo punto che io dica cosa diventa, chi diventa Luis Adamich in seguito, perché l'aspetto interessante credo sia questo, perché prima di tutto Luis Adamich negli anni successivi diventerà una voce molto ascoltata e molto rispettata di un contesto, anche grazie al New Deal, anche grazie al fatto che il New Deal apre anche dal punto di vista culturale e del dibattito sull'identità americana degli spazi che in precedenza probabilmente non c'erano. Lui si rende conto, per tutta una serie di ragioni, anche che adesso non sto a riassumere, che hanno a che fare però anche col fatto che lui a un certo punto riceverà dalla Guggenheim Foundation un finanziamento per fare un viaggio di ritorno nel suo paese natio, quindi tornare in Europa. Torna in Europa proprio nel 1933, quando Mussolini è pienamente al potere in Italia, Hitler sta prendendo il potere in Germania, e lui va, passando tra l'altro da Trieste, che in quel momento è ridiventata italiana, e lui da sloveno è testimone in quei mesi di cosa sta subendo le minoranze slovena e croata per mano del fascismo, che ha bisogno di italianizzare quelle terre, quindi non solo Trieste, anche Istria, Dalmazia, devono diventare completamente omogeneamente italiane. Quindi lui assiste al fatto che ad esempio i suoi connazionali non possono parlare la propria lingua in luoghi pubblici, che è uno dei primi provvedimenti che il fascismo prende. E qua sto rispondendo alla tua domanda, non è tanto il fatto che io sia di Trieste, ma il fatto che comunque quel territorio è da anni che in un qualche modo lo studiamo da questo punto di vista e tentiamo di sfatare alcuni miti che non sono mai stati affrontati fino in fondo. Ma appunto lui torna in Europa, visita la Jugoslavia, fa un viaggio lunghissimo in questo paese che non conosceva nemmeno lui fino a quel punto, perché se n'era andato quando aveva 15 anni e conosceva solo quel pezzetto di Slovenia. Invece finirà ad arrivare fino alla Serbia, al Montenegro, attraverserà la Bosnia di quell'epoca e via dicendo. Riuscirà persino a intervistare il re del regno di Jugoslavia dell'epoca, questo re Alessandro, che è un personaggio altrettanto sanguinario quanto Mussolini e via dicendo. Tornerà negli Stati Uniti e pubblicherà un libro che si intitola emblematicamente The Native's Return, il ritorno del nativo. in cui che avrà un successo particolare perché moltissima gente immigrata come lui nel lungo ciclo di migrazioni che inizia alla fine dell'Ottocento si riconoscerà in un qualche modo in quel viaggio di ritorno. Noi dobbiamo immaginare che milioni di persone erano passate dall'Europa agli Stati Uniti in quegli anni, ma non avevano la possibilità di tornare a casa a vedere come stavano i parenti, a vedere come era cambiato il proprio paese, cosa stava succedendo, eccetera. E lui, in un qualche modo, è come se facesse per interposta persona, come se migliaia e migliaia di persone per interposta persona facessero quel viaggio. E lui da quel momento diventa un grandissimo divulgatore delle comunità migranti negli Stati Uniti, a partire dalle letture, lui era assolutamente, si era formato ad esempio sugli scritti di Horace Cullen, la critica al melting pot, visto come il pluralismo americano non può essere un calderone in cui tutte le differenze, le diversità si fondono e diventano una cosa unica, ma deve essere qualcosa, e lui inizia a ragionare cosa deve essere questo qualcosa, cosa può essere questa cosa, e incrocerà le analisi che negli stessi anni gente molto più formata di lui, sociologi e via dicendo, chiamerà il pluralismo americano, a cui lui poi verrà riconosciuto negli anni 60 un ruolo per essere stato il primo ad aver immaginato ad esempio un'enciclopedia dei popoli americani, cioè un'enciclopedia che in un qualche modo raccontasse le vicende delle varie comunità immigrate negli Stati Uniti, esaltandone anche le differenze e le diverse appartenenze. Lui negli anni 30, da questo punto di vista, avrà un ruolo fondamentale, fonderà una rivista che si chiama Common Ground, che avrà un'esistenza non lunghissima, ma sarà assolutamente seminale e vedrà i contributi di scrittori e di autori importantissimi. E poi durante la Seconda Guerra Mondiale, in un qualche modo, rifarà un viaggio, non fisicamente, ma farà un viaggio dal punto di vista informativo e di studio, eccetera, in quello che sta diventando il suo paese di origine, la Jugoslavia, durante la Seconda Guerra Mondiale. Scoprirà che c'è una resistenza socialista che si sta muovendo in quei territori, scoprirà che c'è un personaggio mitologico fino a quel punto che qualcuno pensava addirittura non esistesse, chiamato Tito, e diventerà in un qualche modo alla fine della Seconda Guerra Mondiale uno dei maggiori sostenitori della causa jugoslava negli Stati Uniti, consapevole del fatto che la Jugoslavia, rispetto all'orbita sovietica stalinista, inizia a rappresentare, poi nel 1948 si arriva alla rottura definitiva tra Stalin e Tito, la Jugoslavia rappresenta secondo lui un modello di mediazione tra il modello democratico liberale americano e il modello socialista realizzato dell'Unione Sovietica. E questa sarà la sua rovina, perché di fatto Adamic in quegli anni finirà nel mirino del maccartismo, diventerà una figura assolutamente invisa a tutta una serie di settori americani che in quegli anni hanno la completa egemonia politica di quel processo, e questo causerà la sua morte nel 1951, probabilmente per un suicidio, un aspetto. Sono aspetti che poi, come appunto accennava Mark prima, io ho tentato un po' di ricostruire in forma narrativa nel libro precedente, però ci tenevo a raccontarvi tutto questo, perché si è partiti da Mike Davis, si è partiti dal fatto che Adamic era un autodidatta, si è partiti dal fatto che Dynamite ha dei limiti dal punto di vista della ricostruzione storica, ma anche, come giustamente sottolineava Bruno, anche dal punto di vista della tenuta narrativa, i registri sono assolutamente diversi, ci sono capitoli che non azzeccano nulla con tre capitoli precedenti, stavi scrivendo in un modo, adesso stai utilizzando un registro completamente diverso, non so, utilizzi da un lato il registro appunto sensazionalistico sui Molly Maguires, e dopo invece mi proponi un capitolo sulla situazione dei disoccupati durante la prima prima crisi del 1893, e là invece utilizzi un registro quasi sociologico o saggistico, eccetera. In altri momenti fai parlare dei personaggi in prima persona e gli metti in bocca dei termini di slang, li fai parlare con la lingua proprio della strada e via dicendo. Noi, rileggendolo oggi, è quasi un secolo, ci siamo resi conto che questa era veramente una narrazione ibrida, che era veramente un libro che in qualche modo cercava, come lo slogan della collana Quinto Tipo, adesso spiegherò anche l'aspetto delle due collane, lo slogan della collana Quinto Tipo è raccontare una storia con ogni mezzo necessario, dove l'accento è sul necessario. Per certi versi, Adamic, avendo prima di tutto una necessità materiale, che era quella di riuscire a pubblicare questo libro per essere pagato, ma aveva anche la necessità di raccontare una storia che era la sua storia, che era anche la sua storia. E uno dei motivi per cui l'ho già più di qualcuno ha notato questo aspetto in cui in Dynamite forse troppo spesso si dà particolare risalto a figure individuali e si perde un po' di vista invece l'aspetto della moltitudinario della classe operaia e così. Però questo fa anche parte del fatto che per certi versi quando Adamic scrive magari anche in terza persona è come se stesse scrivendo in prima persona, è come se stesse parlando di se stesso, sta in un qualche modo raccontando la vicenda di cui lui è pienamente parte. E con questo chiudo, noterete se lo prendete in mano che il libro praticamente ha due copertine. Questa è la copertina della collana Quinto Tipo, che è la collana appunto di narrazioni ibride diretta da Wu Ming-uno, e questa è la copertina classica della collana che sicuramente molti di voi conosceranno, della collana Working Class diretta da Alberto Prunetti. Noi ci siamo resi conto che l'altro aspetto fondamentale è che questa è pienamente una storia working class, cioè nel senso in cui intendiamo le narrazioni working class, ovvero raccontate dall'interno della working class. Sono testimonianze di prima mano in un qualche modo, sono gli stessi scrittori, sono essi stessi working class e quindi stanno riportando qualcosa che hanno vissuto in prima persona, che hanno vissuto sulla propria pelle e che quindi ha un particolare pregio non tanto dal punto di vista storico ma dal punto di vista appunto della testimonianza diretta di alcuni eventi. Mi fermo qua. Io avrei subito due domande, una per Bruno Cartosio e poi una anche per te, e poi lascerei le domande, gli interventi dal pubblico. A Bruno Cartosio vorrei chiedere, tenendo buono questa ramificazione che riguarda le lingue, le multiculture, eccetera, prima della presentazione in cortile c'erano due dei fondatori di Mediterranea che stavano parlando di un nuovo progetto, probabilmente si chiamerà Ferrovia Sotterranea, per ricollegarsi a questa storia un po' mitologica ma insomma ricostruita anche dal romanzo di Whitehead, di costruzione di una rete di solidarietà per i migranti. A Bruno Cartosio vorrei chiedere, è mitologia il fatto che i Ublis avevano questa composizione multiculturale, multinazionale, ma in qualche maniera la superavano? No, questa non è mitologia, questa è uno degli aspetti più importanti, tra l'altro uno degli aspetti principali della ragione per cui ci siamo occupati molti anni fa, ci siamo occupati proprio di loro. Non avevano un'idea, diciamo così, leninista del partito. Avevano un'idea molto precisa della composizione sociale, etnica, culturale, linguistica della classe operaia negli Stati Uniti. Sapevano che era un'insalata fatta di tante di tante qualità diverse di persone, gruppi e così via, e sapevano che qualsiasi tentativo di organizzazione doveva partire da quel dato di realtà e si comportavano di conseguenza. In occasione dello sciopero, del famoso sciopero di Lorenz, a cui Adame dà un rilievo forse inferiore a quello che avrebbe meritato, in quell'occasione, che è uno sciopero nel settore nel settore tessile, la composizione della manodopera degli opifici di Lorenz nel Massachusetts era tale per cui, quando è iniziato lo sciopero e gli Wobblies hanno cominciato a intervenire, fecero arrivare nella cittadina di Lawrence tutta una serie di organizzatori, di militanti, di quadri che erano in grado di rivolgersi ognuno nella sua lingua al suo gruppo. C'erano gli italiani, c'erano i franco-canadesi, c'erano ovviamente inglesi di varia provenienza, inglesi nel senso di americani di varia provenienza, c'erano immigrati irlandesi, c'era una piccola componente ebraica, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, questo è uno dei dati fondamentali. Dal punto di vista organizzativo era un punto fondamentale, ma è uno dei punti che per noi oggi dovrebbe essere ripreso e fondamentale, perché noi oggi abbiamo a che fare con delle componenti di classe che vengono da paesi diversi, lontani, che hanno lingue diverse, culture diverse, eccetera, eccetera. Quindi questo sforzo di comprensione e di comunicazione è assolutamente, che era fondamentale allora, in quella società è diventato altrettanto fondamentale in questa società nella quale viviamo. Ed è una delle cose che, pur essendo fondamentali, non gode della necessaria attenzione e del necessario rispetto per la qualità umana, per la dignità, per le necessità di queste componenti. Ecco, e Andrea, invece, nella tua veramente bellissima postfazione, racconto, ricostruzione, scrittura ibrida a Dynamite, tu fai racconti le differenze, le analogie fra i metodi di sfruttamento raccontati da Adamich e quelli attuali, ma anche per esempio la costruzione del mostro anarchico a quei tempi erano Sacco e Vanzetti o altri, e in questi anni di attualità invece abbiamo visto come è stata gestita la questione di Alfredo Cospito. Ci racconti questi aspetti, differenze e analogie? Il senso non era ovviamente quello di trovare dei ricorsi storici o di stabilire dei paralleli precisi o dire la storia si ripete e altre banalità di questo genere. Il senso era partire dalla qualità narrativa che abbiamo individuato in Dynamite, cioè il fatto che prima di tutto il libro, cioè, è strepitoso comunque, la prima volta che leggi Dynamite comunque non riesci a non appassionarti al modo in cui sono raccontate quelle storie. E ripeto al plurale, il titolo originale tra l'altro era The Story of Class Violence in America, noi abbiamo deciso di tradurlo con con storie di violenza di classe negli Stati Uniti, proprio per dare anche l'idea di questo metodo un po' in qualche modo di montaggio di vicende diverse, di personaggi, figure diverse e anche di piani del discorso che cambiano di volta in volta. E con questo spirito l'idea era, proviamo a parlare anche un po' di oggi, nel senso riteniamo che questo sia un testo che è utile riproporre oggi, non tanto per un vezzo filologico, non tanto per una necessità di ricostruzione storica ovviamente, ma perché viviamo un'epoca in cui c'è bisogno comunque di riprendere le fila di un'attitudine, delle modalità di affrontare le lotte, delle modalità con cui le lotte si esprimono, del far emergere anche le contraddizioni che le lotte portano con sé. Perché parliamoci chiaro, Adamici in alcuni punti sembra quasi stia criticando la sua stessa classe. Usa dei toni in certi momenti, questo è un po' anche viene dalla frequentazione con Mencken, appunto, in cui l'ironia la faceva da padrona, per cui si ironizzava su tutto, eccetera. Poi non l'avrebbe più fatto, ad esempio, lui quando esce la seconda edizione, che è quella che abbiamo tradotto stavolta nel 1934, lui lo scrive chiaramente, dice quello che poteva far ridere 5-10 anni fa, oggi non è più divertente, semplicemente è diventato tragico, e quindi c'è anche una riflessione sua su questo aspetto. Però lui quei toni in alcuni passaggi li utilizza, ma li utilizza con quella modalità con cui si fa autoironia più che fare sarcasmo contro qualcun altro. Individuare i limiti, le contraddizioni è importante anche per capire in che mondo stiamo. In quella che tu hai definito la postfazione, che non è esattamente quello che avevamo in mente, era più l'idea di una ghost track, come nei dischi, qualcosa che arriva a fine lettura e di colpo ti trovi davanti un capitolo ulteriore che però non riesci a capire dove si colloca. Non svelo più di tanto di questo, perché lo lascio a chi leggerà. Però una delle lotte di cui ci occupiamo è quella di cui abbiamo... Sto parlando al plurale perché ricordo che comunque sono libri questi, di queste due collane in particolare, che nascono comunque con uno sforzo collaborativo perlomeno tra l'autore, gli editor, i direttori di collana, in questo caso Alberto Prunetti, Vuminguno, ma anche Pietro De Vivo, che ci ha aiutato nell'editing e via dicendo. E dicevo, volevamo in un qualche modo individuare tra le lotte di questi ultimi anni qualcosa di vicino a noi che richiamasse per certi versi le cose che raccontava Adamici a quell'epoca. E guarda caso siamo finiti sulle lotte nella logistica. Era inevitabile, perché la composizione di classe è praticamente la stessa, e quella di cui Bruno un attimo fa parlava. Il problema che abbiamo è il problema che ha il presente oggi, è quello della possibilità che i lavoratori più ricattabili e in condizioni peggiori dal punto di vista della possibilità della ribellione possano avere la possibilità di organizzarsi. Il problema dell'organizzazione, della legittimità a organizzarsi, è un problema presentissimo in Dynamite in continuazione, ma se ci guardiamo attorno è un problema che abbiamo quotidianamente, soprattutto le generazioni più giovani, ma non solo. Ormai in certe situazioni è veramente complicato riuscire ad organizzarsi. Nelle lotte della logistica in Italia in questi anni, prima Bruno accennava ai Pinkerton. I Pinkerton era questa agenzia che nasce a un certo punto verso la metà dell'Ottocento da un immigrato irlandese, mi pare di ricordare, e diventa nel giro di qualche anno praticamente un corpo paramilitare di fatto, che fornisce i propri servizi ai padroni. si rendono conto che è possibile, cioè c'è una, letteralmente una privatizzazione della sicurezza, c'è una privatizzazione della repressione. E i Pinkerton mettono a disposizione gli strumenti di cui i padroni hanno bisogno, mettono a disposizione prima di tutto crumiri, organizzano i crumiri per stroncare gli scioperi, mettono a disposizione squadracce armate, vanno letteralmente ad assaltare con le armi i picchetti, ed è il motivo per cui le lotte di cui parlava prima Bruno veramente comprendevano episodi di guerra vera e propria, cioè ci si sparava da una parte all'altra, c'erano scontri a fuoco che duravano giorni, si tenevano le linee addirittura a un certo punto. Anche se in alcuni casi certi scioperi invece erano assolutamente, nelle intenzioni degli scioperanti, certi picchetti erano assolutamente pacifici, partivano proprio con l'idea. In certi momenti, infatti, un ruolo enorme l'avevano le donne, che finivano per essere parte fondamentale nei picchetti proprio per tentare di abbassare la tensione, per mettere di fronte alle squadracce armate il fatto: guardate, siete anche voi esseri umani, altri uomini che state andando contro altri uomini e donne, bambini, famiglie e via dicendo. Questo aspetto della privatizzazione della repressione, ma anche l'aspetto proprio delle tattiche intimidatorie da racket della sicurezza, ma di stampo malavitoso, è intanto in quegli anni Adamic si rende conto di una cosa, viaggiando in Europa, vedendo il fascismo in Italia, come agiscono le squadracce fasciste sui luoghi di lavoro in Italia, vedendo come agiscono le squadracce che contemporaneamente vengono organizzate in Germania, vedendo come agiscono nella repressione di qualsiasi forma di opposizione delle squadracce sempre non inquadrate dentro gruppi ufficiali in Jugoslavia, ritorna in America, vede i picchetti in California, viaggiando in California, ad esempio nelle piantagioni, negli agrumeti e in altre piantagioni, vede che c'è una commistione tra agenti della Pinkerton e il Ku Klux Klan. Quindi c'è una sovrapposizione tra livelli di squadrismo praticamente parafascista anche negli Stati Uniti. E quindi osserva questa costante. A me è capitato, parlando con un compagno del SICOBAS in Veneto, che organizza, che è un sindacalista appunto attivo nella logistica, che mi ha raccontato di episodi in cui i loro picchetti sono stati assaltati da gente che non era né polizia né altro, era proprio una commistione tra malavita e fascisteria di strada, dello stadio o robe del genere. Per cui ci sono delle costanti che ritornano, che sono per certi versi anche possono risultare anche particolarmente curiose. Un parallelo, si parla molto di intelligenza artificiale, di come c'è stato uno sciopero negli Stati Uniti nei mesi scorsi che ha bloccato le produzioni di Hollywood per mesi, che alla fine è risultato vincente. Uno degli aspetti fondamentali di quella protesta era proprio il fatto che le comparse o comunque gli attori non di alto livello, ma gli attori che fanno ruoli di secondo, terzo livello, eccetera, avevano iniziato ad essere scannerizzati durante i provini con l'intenzione di riprodurre i loro ruoli attraverso l'intelligenza artificiale. C'è un parallelo storico che in Dynamite troverete, che è impressionante, che è il momento in cui subentra l'utilizzo del sonoro nel cinema. A quel punto ci sono migliaia e migliaia di musicisti che fino a quel momento accompagnavano gli spettacoli cinematografici, che erano muti, che si ritrovano senza lavoro. Ma essendo sindacalizzati si innescano delle lotte che sono anche particolarmente dure, che però hanno delle caratteristiche tutte di retrovia. Quindi c'era una serie di aspetti che valeva la pena mettere in luce. Io però approfitto di questa domanda per far presente una cosa. Gli Stati, e credo che Bruno abbia anche lui da dire delle cose su questo. Negli Stati Uniti, negli ultimi due anni, i livelli di iscrizione ai sindacati sono aumentati in maniera esponenziale. È una, c'è stato tra 2022 e 2023 una marea di iscrizioni nei sindacati, e a cui sono corrisposte una marea di scioperi, e di scioperi che molto spesso sono risultati vincenti. Non c'è solo questo, ad esempio, dei lavoratori dello spettacolo, ma c'è soprattutto lo sciopero dei lavoratori dell'industria automobilistica. La United Automobile Workers ha portato a casa una vittoria storica proprio pochi mesi fa, e in queste settimane, guarda caso, a Minneapolis, la città dove c'è stato l'omicidio di George Floyd, dove c'è stato tutto quel movimento che è iniziato dopo la sua morte, causando quel putiferio che nessuno avrebbe immaginato, tra l'altro in piena pandemia, e ribaltando alcune concezioni che avevamo sul fatto che in America comunque in generale si muove sempre poco. A Minneapolis in queste ultime settimane c'è un movimento tra il sindacale e il sociale, tra l'altro, perché sono degli scioperi che sono iniziati come scioperi settoriali locali, quindi, che via via sono andati espandendosi e coinvolgendo sempre più ampi settori di società. Allora il punto non è tanto pubblicare libri di questo tipo per appunto riprenderli come vezzo storiografico, filologico, che altro, ma riprendere delle storie che in un qualche modo risuonano col presente e ci permettono anche in prospettiva di fare di capire in che modo la società è evoluta, sono cambiati le relazioni, eccetera, e in che modo invece alcuni nodi, ad esempio quello dell'organizzazione, continuano ad essere degli aspetti che vale la pena indagare. Io da questo punto di vista invito, e non è, se visto, ma non è per ricambiare il complimento iniziale, però io nei giorni scorsi rileggevo delle parti di questo libro qua, che è il libro del 2007 credo sia, no? Sugli Wubli che Bruno aveva curato, che ha tra l'altro dei contributi di americanisti di primissimo piano come Ferdinando Fasce, Sandro Portelli eccetera, e c'è un capitolo credo tuo proprio, che racconta tutta la vicenda di come dentro in pochissimi anni, tra l'altro, perché poi la parabola degli IWW, per quanto sia un sindacato che nominalmente esiste ancora oggi, anzi in alcuni casi anche un ruolo anche interessante in diverse lotte, però la parabola degli Wubli praticamente dura 15 anni, la parabola ascendente, cioè gli Wubli vengono fondati nel 1905 e già nel 1915, con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, inizia una repressione durissima a cui saranno sottoposti. Però al loro interno, essendoci dentro componenti socialiste, componenti anarco-sindacaliste, componenti che già andavano verso un superamento del socialismo, infatti alcune figure, credo William Zay Foster probabilmente, poi saranno esponenti comunisti del Partito Comunista, e c'è un dibattito interno a quell'organizzazione, per quanto ripercorra le solite modalità di divisioni o di interni alla sinistra eccetera, però è assolutamente appassionante per il tipo di ragionamento. Dobbiamo fare sindacati completamente nuovi o dobbiamo fare entrismo in quelli che già esistono? Dobbiamo trovare forme sindacali che ricalchino quelle delle organizzazioni tradizionali, o dobbiamo inventarci forme completamente nuove? Oppure dobbiamo puntare addirittura a qualcosa di ancora più politico, che superi il sindacalismo stesso e ponga i semi di una società diversa? Sono temi che restano attuali in un qualche modo, ce li ritroviamo sempre davanti, non sono mai stati risolti, il Novecento non li ha risolti, il Novecento non ci ha dato nessun tipo di manuale di come si fanno le lotte, sembra che ricominciamo sempre da zero, però credo che abbiamo che libri come questo diano una mano anche perlomeno, e da questo punto di vista gli Wobbly sono particolarmente importanti, anche a ricostruire un immaginario, perché poi l'aspetto importante della differenza grossa tra l'American Federation of Labor, cioè un sindacato più al di là, se in certi momenti più reazionario, più conservatore o altro, e gli IWW, sta nel fatto che gli IWW si erano posti anche il problema delle forme di vita, di quello che oggi magari chiameremmo il biopolitico, o di quello che avremmo chiamato l'agitazione culturale o l'egemonia culturale e via dicendo. E sono aspetti che comunque sono abbastanza convinto restino attuali e valga la pena ripercorrere sempre. Io penso che ci sia l'energia e il tempo per degli interventi, e per cui chi vuole intervenire, ce ne sono già due. Prego. Buonasera, io volevo fare, approfittando di, delle ultime cose che ha detto lui, mi è venuta in mente già una domanda che volevo fare a Bruno, che riguarda proprio i Wobblies, perché quando li ho scoperti negli anni 70, fine anni 70, così, quando ho avuto la fortuna di tradurre l'autobiografia di Elizabeth Gurley Flynn, e poi me li sono studiati, e addirittura anche ho cominciato a suonare le canzoni in giro per la strada. e però all'epoca non c'era ancora internet, per cui non si avevano tante notizie, cioè sul fatto che appunto dopo la grande repressione, dopo la prima guerra mondiale, sembrava che fossero scomparsi o comunque ridotti praticamente a zero. Poi invece recentemente, cioè da un po' di anni, ho scoperto che non solo ci sono ancora, ma hanno un sito, addirittura un sito internet, eccetera eccetera. E siccome lui adesso ha detto che hanno ancora addirittura un ruolo interessante e significativo in alcune lotte, volevo chiedere a Bruno se ne sa qualcosa in particolare, e che peso hanno oggi, hanno ancora un peso, sono attivi, hanno una funzione, hanno un ruolo politico significativo, o sono soltanto un gruppo di sopravvissuti, tra virgolette, dell'epoca in cui sognavano One Big Union, che poi non si è realizzato? Grazie. Non sono una componente fondamentale da nessuna parte, però sono frammenti che sono presenti in molte delle lotte, delle situazioni di protesta, di sciopero, di tentativi di organizzazione che vengono messi in campo oggi. Non sono mai agitazioni o azioni fatte nel nome dell'IWW. Però i Wobblies, pochi in genere, ma ci sono quasi sempre. Tutte le volte che c'è la forma specifica del tentativo di organizzazione politico-sindacale oggi, quelle che avvengono e che sono una forma importante oggi, che avvengono in luoghi non sindacalizzati e quindi sono tentativi che avvengono al di fuori dell'azienda oppure in modo quasi segreto all'interno dell'azienda, e che hanno la caratteristica dell'ebollizione che viene coltivata, che viene portata avanti quasi segretamente oppure tra pochi, eccetera. Ci sono, perché loro, l'idea che rimane dell'IWW è quella del partire sempre dal basso, sempre dall'organizzazione dove non c'è. È questa la caratteristica. Se si pensa, faccio soltanto un esempio, se si pensa alla, alla lotta che c'è stata contro Amazon a Staten Island, New York, quella lotta vincente che c'è stata e che ha portato alla costituzione di un gruppo sindacale, beh, ci ha messo 2 anni a costruire quel gruppo, a costruire quella presenza, e a partire dal fatto che un paio delle persone che erano state licenziate perché avevano cercato di introdurre il sindacato nell'azienda, la Amazon, pur essendo stati espulsi, essendo stati licenziati, hanno mantenuto i rapporti, hanno costruito i rapporti con quelli che erano rimasti dentro, e ci ha messo 2 anni e alla fine hanno vinto una lotta che qualche mese prima a Bessemer in Alabama, che certo non è New York, non era riuscita, era stata sconfitta nelle votazioni interne, erano quelli che volevano l'organizzazione erano stati sconfitti. La diversità di fondo è che in quel caso era stata una lotta imposta e portata avanti dall'alto. Era l'organizzazione sindacale, il sindacato esistente fuori, che aveva puntato a organizzare quella fabbrica di 6.000 dipendenti. Era arrivato da fuori e non era riuscito a costruire la necessaria solidarietà interna. Qui ci hanno messo 2 anni invece di 6 mesi a fare la propaganda, ci ha messo 2 anni e ci sono riusciti. Questo è il vecchio seme delle lotte dell'IWW. E da nessuna parte, in tutti gli scioperi che hanno ricominciato ad esserci e ad essere presenti, che ho trovato, insomma, che ho seguito, che ho cercato di capire nell'ultimo paio d'anni, dal 20 in avanti, perché la ripresa era iniziata nel 18-19, poi c'era stato il blocco della pandemia e poi dal 20 contemporaneamente e dopo il caso di Floyd era ricominciato questo fermento. Tutti quelli che ho cercato di capire che caratteristiche hanno presenti alcuni di questi tratti. A volte ci sono i militanti ex o giovani di recupero, non sono vecchi testimoni, sono i giovani attratti da quel tipo di modello, come è giusto che sia, perché è così deve essere. A volte ci sono, a volte non ci sono e non lo sanno che il modello a cui stanno facendo riferimento è quello. Però la cosa che, quando dico spesso ci sono, è che negli ultimi anni è stato messo in evidenza che in molti luoghi e in molte lotte è presente quella che viene chiamata la militant minority, cioè la minoranza militante, che è esattamente quello che erano i Wobblies 100 anni fa. Quindi, insomma, c'è questo recupero, insomma. Non ripubblicano i libri, però il contenuto di quello che sta succedendo è proprio nel recupero di forme di lotte, di obiettivi, di modalità che stanno nelle cose che stiamo leggendo e discutendo. Dico le cose che stiamo leggendo e discutendo perché negli ultimi tempi ho letto, parlato e discusso di un libro, Black Marxism, che è stato pubblicato nel 1983, che curiosamente è stato ripubblicato nel 2020 e intorno al quale c'è stata una ripresa di discussione significativa. Ecco, questo è quello che sta succedendo, a cui faceva riferimento anche Andrea pochi minuti fa. A quello che ha detto Bruno aggiungerei un particolare. Nelle grafiche delle lotte statunitensi degli ultimi anni, che sia Occupy e le successive, spesso e volentieri viene ripresa la grafica IWW, reinterpretata, ma il riferimento, se si va a guardare, è molto diretto. E questo sia sulla costa ovest che a New York con Drucker, Seth e sì. Peter Cooper. Ecco, in questo caso è proprio un riferimento diretto. Tra l'altro sulla stessa rivista, primo maggio, fu pubblicato quel bellissimo saggio sulla grafica e lo stile della propaganda IWW di Giancarlo Buonfino. Ecco, io dico due cose brevi. Uno, la prima, sul carattere delle lotte, dei rapporti di classe in quegli anni. Già vi stavi accennando tu nell'ultimo intervento. Oltre all'estrema durezza dello scontro e ai livelli di violenza praticati, c'è un altro tratto per me entusiasmante, cioè l'estrema varietà delle forme di organizzazione, delle pratiche e dei terreni praticati. Cioè c'è sia l'azione diretta, c'è il sabotaggio, ma c'è anche la lotta per la libertà di parola, in cui i compagni vengono chiamati da tutti gli Stati Uniti a raggiungere località dove questa libertà era negata per fare dei brevi comizi e farsi arrestare, e facendosi arrestare in massa bloccare la macchina giudiziaria. Sembrerebbe un terreno di diritti civili poco significativo, in realtà era uno snodo importante dei rapporti di forza in quelle zone, dove la Costituzione non sapeva neanche dove stesse di casa. Oltre all'azione diretta nella lotta, c'è un grosso sforzo nella riproduzione sociale dei rapporti, per cui gli ospizi, le case di accoglienza per i vagabondi, soprattutto in inverno, sempre con una biblioteca, quindi un'attenzione grossissima per l'autoformazione, per la cultura praticata. E sono gli anni dell'autodidattismo, in cui i poveri pensano di potersi, istruendosi, cavare dalla situazione di emarginazione, e questa è una pratica che coinvolge una rete molto molto vasta e dura a lungo. In tutte le città c'è una casa d'accoglienza organizzata dagli IWW o da organizzazioni consimili, dove non viene fatto assistenzialismo, ma si copre appunto il terreno della riproduzione nei suoi vari aspetti. Molti di questi tratti, secondo me, sono ritrovabili anche nella Germania degli anni 20, dove non a caso ad esempio un'organizzazione come la Lega dei Vagabondi, che era poi formata dagli stessi soggetti politici, ha come numi tutelari Charlie Chaplin e figure dell'emarginazione praticata attivamente. E quindi anche lì artisti, militanti, lottarmatisti si trovano in una copresenza di spirito e in questo sforzo comune danno vita a delle organizzazioni significative che si battono quando c'è da battersi, ma che già cercano di costruire una vita diversa. Ecco, questo tratto dell'estrema ricchezza, oltre che dell'estrema violenza della pratica sociale diretta negli Stati Uniti, è un'altra cosa che a noi, secondo me, dice ancora molto. Ecco, questa considerazione volevo fare. E invece volevo chiederti qualcosa riguardo all'altra parte della tua attività, oltre che la scrittura e questo nesso tra scrittura e movimento. Volevo chiederti come la vedi, se hai incrociato, se ti paiono significative 3-4 nomi che secondo me potrebbero dialogare bene con quanto hai fatto tu, e volevo comunque sapere come la vedi. Il primo non è molto conosciuto, io l'ho incontrato per caso, Kevin Baker, Il paese dei sogni. una narrazione molto interessante della New York dei primi anni del secolo, dove si incrociano i percorsi della forza lavoro femminile, per lo più ebraica, che poi questo filone della storia andrà a concludersi nel famoso incendio, e il filone della costruzione della società dello spettacolo e il filone del rapporto con l'immigrazione europea e il rapporto con la cultura europea, insomma un intreccio molto molto ricco e a mio avviso interessante. Un altro esempio di scrittura delle lotte totale, secondo me, è quello di quando le anime si sollevano. Qui siamo non nella contemporaneità statunitense, ma nella rivoluzione di Haiti. Quindi è in quello che è il primo atto di liberazione dal colonialismo, e quindi la figura del Napoleone Nero e questa capacità, questo sforzo di rendere, in quel caso ecco, non risalta solo il grand'uomo di movimento, la figura, ma la coralità della, non so se l'hai mai incrociato di interesse. Il terzo e ultimo è l'Orwell di Omaggio alla Catalogna e di Fiorirà la Spidistria. Tre esempi diversi, ma che convergono su una stessa domanda: come legare la scrittura creativa con la narrazione storica delle lotte, delle situazioni di conflitto socio-storico. Oppure quali sono un po', insomma, i tuoi riferimenti, gli autori che ti sfrugugliano di più e che sono più legati a questa tua attività? Ma io in realtà, a onore del vero, intanto grazie per i consigli di lettura, perché ma vabbè, da un lato me la cavo dicendo che farei un torto in questo momento, perché tra il catalogo di Allegre degli ultimi anni, soprattutto la collana Working Class, ma anche la collana Quinto Tipo, ma il catalogo sicuramente anche di editori come Agenzia X, e non lo dico perché c'è Marco qua, e c'è tanta roba, per cui non... Però devo fare una premessa fondamentale. Io sono arrivato a tradurre questo libro e a pubblicare il libro e a scrivere il libro precedente grazie al fatto che da diversi anni sul blog dei Wuming siamo un bel po' di gente ad essere attiva intorno al problema di... come rendere le narrazioni, come rendere la ricostruzione storica in termini narrativi e viceversa, ma a partire anche da dei problemi concreti che avevamo di fronte. Io in particolare faccio parte di un collettivo, di un gruppo di lavoro, chiamiamolo come vogliamo, che si chiama Nicoletta Burbacchi, che da ormai una decina d'anni abbondante su quel blog e su altri canali, poi recentemente Nicoletta Burbacchi ha pubblicato il suo primo libro intero che si chiama L'orco, la fanciulla, no, adesso sbaglio il titolo, comunque è un libro di ricostruzione del cosiddetto caso di Giuseppina Gersi, che era una fanciulla di 15 anni che, secondo la narrazione fascista, viene uccisa dopo essere stata crudelmente violentata e seviziata da dei partigiani nell'ambito di quella che è la resistenza savonese. E non a caso Nicoletta Burbacchi ha pubblicato come primo libro questo lavoro qua, che si svolge nel Savonese dopo aver per anni affrontato i temi storici legati alle zone da cui provengo io, che sono quelle del confine nordorientale. E ti sto dando questa risposta perché io invito assolutamente ad andare a recuperare vedo qualcuno tra il pubblico che mi pare li conosca bene, però i lavori di Nicoletta Burbacchi secondo me hanno proprio questa qualità, ovvero di coniugare il rigore storico assoluto dei fatti che vengono raccontati col tentativo di raccontarli in una maniera che sia il più possibile accessibile e in un qualche modo anche coinvolgente, cioè trovare dei modi per come si faccia questa cosa qua, io non ne ho idea, cioè non è qualcosa che in quel contesto, io sono certo che in quel contesto la vera differenza la fa il lavoro collettivo, la scrittura collettiva. Ogni testo che esce dall'officina Nicoletta Burbacchi è talmente lavorato, è rilavorato, è riletto, è riponderato, è riconsiderato in ogni minimo dettaglio da un bel po' di gente, perché regolarmente mai ci lavorano meno di 5-6 persone, ma molto spesso sono molte di più. E per questo motivo ha la capacità, visto che le competenze che sono messe in campo sono sia quelle dello storico, quelle del narratore, ma anche quelle persino, abbiamo un matematico dentro il gruppo di lavoro, Nicoletta Burbacchi, abbiamo persone che, antropologi, per cui competenze assolutamente diverse che però in un qualche modo appunto hanno il problema di raccontare delle vicende con ogni mezzo necessario, ma anche possibilmente con più mezzi necessari possibili, cioè non precludendosi praticamente nessun tipo di registro, di modalità di ricerca e via dicendo. Io sono abbastanza convinto che questo sia, ed è uno dei motivi per cui a partire anche da questa esperienza poi è nata anche la collana Quinto Tipo, perché la collana Quinto Tipo per certi versi risponde di nuovo alla stessa esigenza. La collana Quinto Tipo è una collana che ospita sempre storie realmente accadute, come si direbbe all'inizio del disclaimer dei film, però tenta di farlo con il taglio di volta in volta, che può essere quello del romanzo, può essere quello del reportage, eccetera, che però abbia un particolare ritmo narrativo, abbia un particolare punto di vista, abbia una particolare modalità dell'autore di affrontare la cosa, abbia un particolare modo, ad esempio, di utilizzare la prima persona, che è un altro aspetto che negli ultimi anni nell'editoria, e tu da libraio lo sai sicuramente molto bene, ha particolarmente suscitato attenzione da parte dei grossi editori, producendo anche tante porcherie in molti casi, nel senso che l'utilizzo della prima persona in alcuni casi finisce per essere un utilizzo ombelicale o autocentrato e via dicendo. Le storie working class della collana diretta da Alberto Prunetti, ad esempio, hanno questa qualità molto spesso. Sono storie raccontate in prima persona molto spesso e hanno una capacità di coinvolgimento che è determinata anche dall'utilizzo della prima persona, però con una prima persona che non si mette al centro della vicenda, non è una voce autoriale che dà fastidio o disturba la lettura e non permette di seguire effettivamente la storia che si sta raccontando. Non so se ti ho risposto, credo di no, però non c'è una risposta. Per quanto mi riguarda, io la risposta non ce l'ho a quella domanda. Se non ci sono domande, io vorrei aggiungere 2-3 minuti. Un libro che va nelle direzioni evocate da Roberto. Un libro tradotto molti anni fa, Boxcar Berta, che è una storia working class al femminile. In quel libro si parla della biblioteca degli hobos nella piazza in Washington Square a Chicago, di Chicago, non di New York, che è anche un posto di ritrovo, di incontro, di il posto che permetteva di passare le giornate d'inverno al caldo e avendo libri a disposizione. E in quel libro viene spiegata la funzione di questo tipo di posto. Ora, questo, a proposito di libri working class, è un aggancio. Ma l'altro aggancio era una parte di quello che diceva Roberto, cioè la funzione di incontro, di intreccio, di diversità di culture, di modalità espressive, di modalità comunicative. Vorrei riportare il discorso all'inizio di questa cosa, cioè quello che ha fatto Primo con la libreria che ha messo in piedi nel 1971 era ed è stato, per tutta la durata della sua esistenza, è stato esattamente questo posto in cui c'era il moderato e il rivoluzionario. Quello che scriveva le poesie, quello che scriveva i saggi storici, quello che faceva politica e quello che scriveva canzoni, quello che suonava e quello che le cantava. Ecco, questo per chiudere e per dare il senso anche della pertinenza di questi discorsi che abbiamo o che cerchiamo di fare, insomma. La pertinenza è questa, questo è il posto.